fossi io, viene lento di vagare, una musica brutal encendió nuestra pasión. Melog 2.0 2.0 di Gianluca Nicoletti. Ascoltavo un istante fa, prima della sigla, dell'interessante sondaggio che sta facendo Radio 24 sul burka delle donne islamiche, e stavo riflettendo che in realtà il corpo della donna, anzi la carne della femmina, detto in termini più espliciti, è il terreno di scontro del più formidabile conflitto tra Oriente e Occidente. Alla fine l'essenza di tutte le guerre, gli stermini, i terrorismi, le missioni di pace, i morti che rientrano avvolti nelle bandiere è soltanto questo. Da una parte esiste una fetta dell'umanità che ha un terrore fottuto del corpo delle donne, le vuole coprire e nascondere e considera gli altri degli infedeli, degli eretici. Perché? Perché le loro donne vanno sconciamente nude in giro. Ma siamo proprio sicuri che a fronte dell'imposizione scellerata di un velo che copra le fattezze delle donne perché nessuno possa vederle, perché siano soltanto dei fantasmi ambulanti, perché debbano rinunciare a ogni felicità dell'occhio, dei sensi, della carne, perché rappresentino soltanto qualcosa di esclusivo dominio degli stretti familiari, non corrisponda a un'altrettanto potente forma di burka anche per la donna occidentale? Riflettete un attimo che in realtà il burka e tutti i suoi derivati e le sue metafore altro non è che un camuffamento esteriore della carne femminile. Coprono la carne femminile con una sorta di velame, di baluardo. Perché? Perché questa non susciti sugli uomini quello che in realtà è naturale che susciti, è giusto e piacevole che susciti. Noi occidentali facciamo qualcosa di molto simile, anche se apparentemente siamo dotati di uno spirito molto più liberale. Il nostro burka lo mettiamo sotto pelle alle donne. Anche a noi probabilmente fa paura la carne femminile, fa paura il corpo femminile. E invece di coprirlo, di nasconderlo, lo deformiamo infilando qualcosa di inorganico, artificiale, meccanico al di sotto della pelle. Le nostre donne vanno velate, vanno nascoste, vanno camuffate, anche loro di un burka. Riflettiamo su questo. Sono Nunzia, ho 40 anni, lavoro presso un supermercato. Ho deciso di sottopormi a un intervento di mastopessi perché dopo due gravidanze il mio seno si è svuotato e non riuscivo più a essere femminile. Ho 25 anni, sono un agente immobiliare. Ho deciso di fare l'intervento perché avevo il seno un po' piccolino. Ho 23 anni, ho deciso di sottopormi a un intervento di mastoplastica additiva. Ho 39 anni, sono una barista. Mi sono sottoposta a un intervento di mastoplastica ricostruttiva. 800240024. La domandina non è per niente tranquilla, non è per niente innocente, anzi è molto fastidiosa. Abbiamo mai riflettuto sul fatto che queste signore e signorine, oggi ne parleremo ampiamente, della storia, genealogia e radici culturali del rimaneggiamento carnale della donna occidentale. E anche la donna, naturalmente ad altre latitudini, seguendo questa falsa riga, si rifà molto volentieri. Le donne islamiche che vanno velate si fanno la blefaroplastica, gli occhi, l'unica cosa si vede, si fanno più belli possibili. Altre modificano il profilo del loro naso perché dia meno segnature della loro provenienza etnica. Ma possiamo parlare lungamente, ma in realtà la cosa che mi interessa capire e quanto il concetto dell'imposizione di un baluardo, di un mascheramento sul corpo femminile faccia parte in realtà di tutte le culture e di un sentimento diffuso che attraversa tutta l'umanità. Voi direte, le signorine che abbiamo sentito sono felici di installarsi delle protesi mammarie, di farsi le blefaroplastiche, di liposuggersi le loro trippe, le loro pance, perché si sentono più belle, esteticamente più accettabili. Ma perché? Riflettete voi che affidate le vostre fattezze carnali al chirurgo plastico con desiderio, apprensione e speranza di essere migliori, di essere più desiderate, più ammirate, più corteggiate. Perché accade questo? accade questo, le donne si rifanno non per sentirsi bene con se stesse, non per stare meglio, è la lettura più ipocrita. Perché fai questo? Perché mi sento meglio con me stessa, perché mi piace essere così. Ma col piffero, non dite stupidaggi. Perché così siete più desiderate, perché sapete che esiste un quoziente medio dell'universo maschile che apprezza quelle protuberanze, sorvolando sul fatto che siano imbottite di polimero artificiale e che siano delle sorta di pallottole insensibili che diventino semplicemente una sorta di transito lento tra la donna fatta in carne ed ossa e la bambola gonfiabile, che altamente suscita attenzioni da parte di una gran parte del pubblico maschile, del frequentatore maschile. Questo non mi scandalizza, sono i più profondi entusiasti e innamorati del mio tempo, quindi mi piace assistere a questa deriva della nostra coscienza tra la nostra carcassa fatta di carne ed ossa e qualcos'altro che ci conterrà in maniera altrettanto felice. Però non dite che la donna occidentale è libera di esprimersi fisicamente, carnalmente, la propria femminilità, perché anche la donna occidentale ha un burka. E questo burka le impone anche dei problemi legati alla sua trascendenza, legati anche alla sua visione della vita, non soltanto legata a un semplice sentirsi accettata dall'uomo. 800240024, sentite qual è il problema profondo che ha suscitato una riflessione simile a questa fatta qualche settimana fa in una mia ascoltatrice. Parliamo dei rifiuti differenziabili, no? Tu fai conto che io, che mi sono rifatta le tette e mi sono rifatta il culo, mi sono rifatta i zigomi, mi sono rifatta la bocca, muoio tra 10 anni. Tra 30 anni, quando verranno a prendermi le mie ossa, questo è un pensiero che mi è venuto, guarda, mi fa troppo da ridere, perché io non mi sono rifatta proprio niente, però ho delle signore che vengono qua e glielo dico a loro, no? Quando apriranno la cassa da morto dopo 30 anni, ci sarà un ulteriore problema sul ciclo dei rifiuti. Ci saranno le ossa belle stese, belle incenerite, e ci saranno quelle protesi lì, messe lì, perché chi le va a togliere quando uno muore? Porca miseria! Io mi ricordo la mia nonna che aveva 2 denti rifatti e glieli hanno ritrovati. Mi viene così talmente da ridere, pensando a tutte quelle che si sono rifatte, che tra tanto tempo, quando apriranno la cassa da morto, ci sarà un ulteriore problema di riciclo dei rifiuti. Gianluca, porca miseria, guarda, io ti voglio troppo bene a te, perché ti indico una strada che io ogni giorno ce l'ho nell'immaginazione. Ciao! Cara amica, sarà un problema. Mi rendo conto di aver posto all'umanità un ulteriore motivo di tristezza rispetto ai tanti che già si inanellano ogni giorno. È vero, la raccolta differenziata dei resti umani sarà uno dei problemi che farà parte della polizia cimiteriale da qui a qualche decennio. Quando le corteggiate, desiderate, ammirate, celebrate dive, veri modelli estetici della bellezza femminile, integerrime e pulcherrime rappresentanti dell'etnia occidentale saranno anche loro per naturale decorso passata miglior vita, quando passeranno molti anni e saranno affidate al pietoso bacio del verme, per dirla alla Baudelaire, qualcosa di loro rimarrà eterno. Quando verrà aperta la bara, non voglio fare nomi perché non voglio creare catene di scongiuri, di questa o di quell'altra desiderata campionessa dei nostri e più umidi sogni nascosti, si troveranno un bel mucchietto di ossa, qualche avanzo di vestimento, la suola delle scarpe, ossa, denti, costole e alcuni palloncini che non saranno mai biodegradabili nel normale decorso di quell'ossa. E cosa se ne farà? Niente, si faranno semplicemente dei cassonetti dove verranno messe tette, chiappe finte, zigomi a palla, tutto ciò che oggi rappresenta oggetto del desiderio sarà in qualche maniera smaltito, perché non danneggi ulteriormente il pianeta già lungamente compromesso. 800240024, cosa ne dite di questa sottile, scritta regola per cui anche la donna occidentale è costretta a operare in maniera indelebile sulla propria carne? Giovanna, buongiorno. Buongiorno. Allora, io volevo dire solo una cosa piccola piccola. Voi avete parlato del fatto che le donne si coprono e da noi invece si scoprono, però mi sembra che gli uomini che fanno coprire le donne con il burka o che comunque non le vogliono far vedere ed esporre agli occhi di qualsiasi altra persona abbiano più paura di loro stessi in quanto uomini che non del fatto che le guardino, perché mi sembrano un po' tutti assatanati, nel senso non è che uno vede una donna e gli viene voglia subito di saltargli addosso, cioè sembra che pensino solo che la donna sia un oggetto di desiderio, noi siamo tanto altro, cioè il fatto di coprirlo non è... Cioè, le coprono agli occhi degli altri, vabbè, però sembra che pensino solo a quello coprendole. Beh, diciamo che è un po' un'ossessione che attraversa la nostra civilizzazione. Io dico, noi poi parliamo di guerre di religione, parliamo di motivi geopolitici, parliamo di incompatibilità, di visione della vita, ma alla fine, se uno va al succo di tutto questo, cosa sono? Persone che da una parte vogliono coprire le donne, le vogliono nascondere, le vogliono insaccare. Per i motivi non sto a sindacare, ognuno ha i suoi motivi, ma viene a pensare che le donne siano esseri pensanti, siano esseri con la loro autonomia, possono loro decidere o meno di andare coperto, scoperto come vogliono. Esistono delle forme intermedie fra l'andare in giro con un perizoma leopardato e andare con un sacco di cui si vedono soltanto gli occhi. Ma il lato B della mia riflessione non è tanto sindacare se sia giusto o non giusto mettere il burka, è questione sin troppo dibattuta e sin troppo delicata per trattarla in maniera superficiale. È altrettanto, volevo capire se lei si sente in qualche maniera obbligata a inserirsi sotto pelle o perlomeno a mettersi attrezzi addosso che in realtà modifichino quello che è la naturalità della sua femminilità. Beh, io faccio parte di una generazione, quindi ho 50 anni, in cui le donne riuscivano a pensare se essere se stesse o essere ciò che oggetti di desiderio. Le generazioni, queste ultime, 30 anni, 25, 40, sono già leggermente diverse. Quindi sono già condizionate al burka sottopelle. Burka sottopelle, ma d'altra parte poi abbiamo un messaggio mediatico continuo, entro i quali noi dobbiamo stare dentro certi standard, altrimenti non siamo più. E questa non la chiama una sorta di legge sacra che impone comunque di adeguarsi a un modello? Mentre una parte sono i guardiani, mi faccio finire, i guardiani della rivoluzione vanno in giro a dare frustate alle donne se solo si vede una caviglia, da noi ci sono dei sottili guardiani di un modello estetico che impongono le donne tacchi a spillo e bellezza sconvolgente, costi quel che costi. Infatti io sono una di quelle donne in cui io ho lottato tanto per avere la libertà di vivere la mia vita in maniera dignitosa, e sono una di quelle donne che dice che abbiamo fatto tanti passi indietro noi come donne qua in Italia, tantissimi, abbiamo perso una dignità e un'identità che avevamo raggiunto. Beh, oddio, ognuno la propria dignità se la conquista ogni giorno, non è che siamo un plotone di persone, lei la sua dignità se la conquista nella sua sfera personale, familiare, via dicendo, mica non si senta responsabile dei passi avanti o passi indietro, no? Dico dignità in senso lato, nel senso che dobbiamo apparire più che essere, e abbiamo fatto tanti passi indietro in questi ultimi anni. Apparire non è che sia una cosa detestabile, guardi, però uno appare secondo i canoni che sceglie lui, più adeguati alla sua felicità, al suo sentirsi bene. Non è un discorso da farsi così in due parole, è molto complicato. Lo so, ma a me piacciono i discorsi complicati. Anche. Guardi, allora andiamo avanti la nostra trasmissione, grazie, rifletta, ascolti, faccia un po' quello che desidera. 800 24 0024. Mi sento un paria, perché io penso che mai mi rifarei il seno, il naso, insomma penso che i difetti sono quelli che rendono unica una persona, anche se comincia a essere cedevole il fisico, io insomma comincio a mollarci un po' di qua, un po' di là, però ritengo che poi riempirsi di plastica sia veramente una tristezza, ma perché non rifarsi il cervello allora? Io parlo da operata, tra virgolette, di liposuzione moltissimi anni fa. Non credo che la protesi emozionale possa essere considerata negativamente quando risolve un problema psicologico, di emotività di una persona. Quando invece è esagerato, perché una si vuole trasformarsi, che ha 70 anni e vuole dimostrarne 20, e allora si rifà tutta completamente, quello sì è un problema. Bene, chiarisco subito la mia posizione. Non ho un atteggiamento censoro-moralista nei confronti di chi si riempie di tutto il materiale inorganico che desideri. Se ciò lo rende contento, lo rende felice, lo faccia pure. Guardo, ti ripeto, con grande curiosità e grande attenzione il mutare della specie umana e vedo arrivare come se fosse il frutto di un connubio dato da una popolazione aliena che si congiunge con le popolazioni umane e lentamente l'ibrido che nasce da questa congiunzione comincia a dare i suoi frutti. Io vedo avvicinarsi sempre di più la popolazione aliena delle bambole gonfiabili che ha avuto rapporti stretti con la popolazione e con i rappresentanti del genere umano, e abbiamo delle figure intermedie che sono metà bambola gonfiabile, metà essere umano. Questo non mi spaventa, non mi sconcerta, sto semplicemente osservandolo. Ma saremo tutti portati a pensare che questo sia un fenomeno datato e circoscritto agli ultimi anni della nostra storia, della storia della nostra umanità? No, invece ha radici ben profonde, ha delle radici storiche. La mutazione corporea, la chirurgia estetica, la cultura della necessità di riprogettazione del corpo umano affonda le radici in veramente un tempo molto remoto. Questa mattina ce ne parla un'esperta che è Rossella Chigi. Rossella Chigi, buongiorno. Buongiorno. Rossella Chigi, ti ho tenuta silenziosa finora, volevo darti elementi di riflessione, allora poi sarai tu la guida della nostra trasmissione fino alla fine. Rossella Chigi è, oltre ad essere amica mia, mica l'ho conosciuta una settimana fa, però mi piace, docente di sociologia dei processi culturali all'Università di Bologna, è autrice di un volume interessante per Il Mulino, Per piacere, storia culturale della chirurgia estetica. Io vedo nel tuo libro, proprio all'inizio del tuo libro, la descrizione di una plastica al naso del 1570. Esatto, sì, come dicevi tu giustamente, la chirurgia estetica o plastica più in generale ha radici lontanissime nel tempo e si può parlare di rinoplastica o rifacimenti di naso proprio anche nel XVI secolo, quando ci si rifaceva il naso perché magari veniva tagliato con un duello oppure veniva intaccato dalla sifilide, e quindi la richiesta di rifacimenti di naso era molto diffusa all'epoca. Ecco, Rossella Chigi, avevo detto Chigi dandoti una definizione vicina a aspetti professionali, invece no, ti chiami Rossella Chigi. La necessità, le prime necessità di rifacimento, di intervento sul corpo sono date dal dover ricomporre uno stato primario cambiato da interventi traumatici, un colpo di spada, la sifide, una malattia. Sarà interessante capire, e ci sentiremo tra un istante dopo le informazioni della borsa, quando comincia l'umanità a pensare, l'umanità occidentale, che in realtà c'è un profondo, necessario, altrettanto lecito desiderio estetico per cambiare il proprio corpo. Melog 2.0. In soli 30 giorni otterrete un bel seno. Protuberante, turgido, perfetto, senza ricorrere a nessuna altra cura inefficace o dannosa. Con un trattamento scientifico esterno che sviluppa rapidamente in modo sorprendente qualunque seno floscio, deficiente, appiattito, atrofico, avvizzito per cause diverse, parti regolari o irregolari, allattamento, esaurimento, eccetera. Il nostro è il solo e vero metodo razionale e moderno. Consultaci per corrispondenza. Garantita la segretezza. Vi sembrerà impossibile, ma questa è una pubblicità presa dalla rivista Donna del 1916, pubblicità che ho tratto dal libro di Rossella Chigi, Per piacere, storia culturale della chirurgia estetica, edizione Il Mulino. Rossella Chigi, senti, mi stanno telefonando molte ascoltatrici e ascoltatori, soprattutto ascoltatrici, dicendo che è perversa il paragone che sto facendo io. Dice, una donna se non mette il burqa in un paese islamico viene lapidata, mentre una donna occidentale è liberissima di farsi o non rifarsi tutte le tette che vuole. È strano che non esista la leggerezza e tranquillità di pensiero di potersi esprimere con paragoni funambolici. È chiaro che non assolvo le lapidazioni per infrangimento della regola del burka, ma altrettanto non posso non ricordare che molte signore e signorine lasciano la pelle sui tavoli operatori per liposuzioni fatte male, per essersi affidati a l'hard discount del rifacimento estetico o per avere richiesto troppo alla necessità di dover modificare il proprio corpo. Ecco, tu sei d'accordo che esista comunque nell'Occidente a un certo punto una necessità non soltanto funzionale e fisiologica di rimettere mano all'apparato carnale, ma anche estetica e culturale? Ma senz'altro, anzi è proprio quello che ho cercato di mostrare con la mia ricerca. Come tu raccontavi prima, giustamente, a un certo punto viene ritenuto necessario occuparsi anche del lato estetico e quindi operare, intervenire non soltanto nei casi in cui c'era stato un incidente, un trauma, e quindi non soltanto per quella che oggi chiamiamo la chirurgia ricostruttiva, ma si è ritenuto necessario anche occuparsi dell'immagine che si dava agli altri. Ovviamente questo ha avuto un'evoluzione lenta nel tempo e si potrebbe dire che è proprio all'inizio del Novecento che questa cosa assume le caratteristiche che conosciamo oggi. Ovviamente non era un fenomeno di massa come oggi, però iniziano alcuni discorsi a essere più diffusi, soprattutto nella classe media in ascesa. L'idea, per esempio, di dire: bene, se io so gestire bene le impressioni che do agli altri, ecco che posso aspirare ad un'ascesa sociale nel mercato matrimoniale per molte donne, oppure anche in quello professionale, sia per donne che per uomini. Un'altra cosa hai detto tu giustamente, è che non viene ancora, non viene spesso ricordata quando si parla di chirurgia estetica, e cioè che è prettamente femminile, anche se senz'altro il pubblico maschile, i clienti, gli uomini sono sempre più interessati, soprattutto alla chirurgia poco invasiva. Rimane una chirurgia a cui si rivolgono soprattutto le donne. 9 pazienti su 10 sono donne e questo è ancora fondamentale. Ecco, sulle modificazioni cruente del corpo femminile, io sto vedendo delle illustrazioni del tuo libro e vedo lo scheletro di una donna costretta nel corsetto tipico fino a tutto il XIX secolo, che cambiava radicalmente proprio le costole fluttuanti, deformava la gabbia toracica. Questo è una sorta di macchina di tortura, però era ampiamente elaborata e tranquillamente imposta alle donne. Assolutamente, infatti è in questo che sta la continuità, gli elementi di continuità con il passato, che riguardano tutta la storia occidentale. Il corpo femminile ha fatto sempre paura, è sempre stato un'entità in qualche modo concepita come inarrestabile, che andava in qualche modo cambiata, che andava calmata e controllata, o con una disciplina interna e autoimposta, con l'ideologia dell'autocreazione attraverso il consumo oggi, oppure anche imposta dall'esterno. Ma il punto è, ed è proprio in questo che posso anche ritrovare una continuità, il corpo femminile andava controllato. Tu parli del corsetto, giustamente, per secoli ha stretto, non soltanto nell'Ottocento ma anche nei secoli precedenti, ha stretto come una morsa il busto femminile, provocando tutta una serie di scompensi dalle donne che svenivano ad aborti spontanei. Questo corsetto è stato sostituito, se vogliamo, da un corsetto autoimposto, con le diete, con il culto della magrezza. Potrei anche ricordare, per esempio, e questo spesso viene dimenticato, che anche in Occidente si è praticata la clitoridectomia. In epoca vittoriana molte donne borghesi o dell'aristocrazia pensavano di poter controllare i fenomeni di isteria proprio attraverso un'operazione chirurgica, e quindi si praticava la clitoridectomia. Il piacere femminile ha fatto paura. Quindi i medici occidentali, forti della loro disciplina, facevano tagliare il clitoride alle donne perché pensavano così potessero essere più controllabili nei loro parossismi isterici. Sentiamo qualche ascoltatore. Massimo. Io la vivo dalla parte dell'uomo come una modificazione del corpo femminile, come la chirurgia estetica, come una perdita di autenticità, uno spostamento verso una spinta epidermica, tra virgolette. Ma guardi che l'autenticità è un termine che si sovrascrive continuamente, nulla fra, nel rapporto affettivo, sentimentale, sessuale, attrattivo fra uomo e donna può essere tacciato di autenticità. Sono tutte sovrastrutture culturali. L'uomo e la donna sono stati fisiologicamente costruiti per accoppiarsi 50 secondi e poi andarsene ognuno per la sua strada. Quindi è tutto, grazie a Dio, e ringraziamo il Padre Eterno di questo, frutto della nostra cultura. Sì, ma io parlo di autenticità nel senso del pensare alla bellezza in termini che non siano quelli profondi e legati alla naturalità delle cose. Ma le sto quello che sto dicendo io, che non esiste la naturalità delle cose in questo senso. Ma oggi va tutto molto veloce. Sì, è che vediamo i fenomeni, sì, ecco, questo è il fatto. Procedere in maniera talmente veloce che non abbiamo tempo di elaborarli, ecco, questo sì. Sì, non abbiamo il tempo di elaborarli, la cultura non riesce a modellare l'incalzare delle nuove mode, delle nuove tendenze, come potrebbe essere un tempo, anche se ciò poi, come dicevate prima, quando penso ai lobby di certe tribù attuali o appunto ai corsetti di cui parlavate prima, poi si sono raggiunte delle forme assolutamente deliranti, anche in culture che abbiano avuto il tempo di sviluppare certi riti, certe usanze, però in generale quello è un fattore stabilizzante, la cultura in teoria consente a queste tendenze di essere in equilibrio con l'ambiente sociale. Sì, il problema è che certi interventi drastici sul corpo in culture passate venivano fatti con dietro perlomeno una visione rituale legata a un fenomeno trascendente. Oggi si fanno semplicemente perché li fanno tutti. Non so se sia meglio o peggio, ma è così. Francesca, buongiorno. Sì, salve, buongiorno. Complimenti per la trasmissione innanzitutto. Al punto. Sono d'accordo per quello che diceva lei del burka sotto pelle, anche se credo che forse potrebbe essere uno spunto di riflessione nel cercare una differenza tra Occidente e Oriente, vedere come effettivamente questo dover aderire a canoni estetici in Occidente è richiesto non solo alla donna ma anche all'uomo. Ma un po' meno, però guardi. Un po' meno. La professoressa prima diceva solo 9 interventi su 10 chirurgici sono dedicati alle donne. In realtà però io mi accorgo, frequentando l'estetista piuttosto che andando a fare la spesa, che è iniziato un iter di attenzione verso gli uomini, le linee di cosmetici solo per gli uomini. Sì, questo è vero, però mentre all'uomo si richiede come fenomeno fascinoso il potere d'acquisto, il prestigio, il potere è sufficiente, questo fa passare, si vedono uomini orribili con donne bellissime, se no non si spiegherebbe, vecchi panzoni fradici con ragazze bellissime, se non il fatto che sono zeppi di soldi, hanno potere, hanno prestigio, altrimenti non si spiegherebbe, e se le donne sono costrette a diventare bellissime per essere accettate. Finiamo con Amedeo che è un chirurgo estetico, buongiorno. Buongiorno. Non si senta chiamato in causa come una sorta di modificatore estremo, ognuno fa quello che vuole, quello che gli dà piacere, è giusto che lo faccia, è che io faccio un'analisi semplicemente, prego. Senta, no, è bellissimo l'argomento della trasmissione, io sto proprio facendo studio di chirurgia estetica e vedo capri in questo momento dalla mia clinica, e quello che volevo dire... Certo, certo che dura la vita, me ne rendo conto, prego. No, due precisazioni. In effetti la chirurgia estetica è antichissima, probabilmente dall'età della pietra, non è soltanto dal 500 e poi dal 900 con gli interventi chirurgici. Allora senta, visto che lei è documentato e abbiamo un'esperta in studio, fermiamoci un attimo per dare le informazioni del traffico. Resti in ascolto, si confronterà con la ricercatrice Rossella Chigi, vedremo chi di voi ha radici più lontane del principio di modificare il proprio corpo per motivi estetici. Melog 2.0. Chi è la ragazza più brutta di New York? Più brutta di New York. Il Daily Mirror vuole trovarla perché una grande opportunità l'attende. Un chirurgo plastico si è offerto di prendere la ragazza più brutta della più grande città del paese e di farne una vera bellezza. Una vera bellezza, vera bellezza. Il Daily Mirror selezionerà dei giudici competenti per valutare le qualità delle concorrenti. Tutto quello che dovete fare è mandare la vostra foto con il vostro nome e il vostro indirizzo ai curatori del concorso per la ragazza più brutta. Non pubblicheremo i nomi e le foto saranno mascherate. I nostri grafici dipingeranno delle maschere sulle foto per impedire il riconoscimento. Questa è la grande opportunità per la ragazza più brutta di New York. La sua sfortuna può essere la sua fortuna. Spedite subito le vostre foto. Questo era un annuncio del Daily Mirror del 1924 che sembra già anticipare uno dei format più frequenti nella televisione contemporanea, quella del brutto anatroccolo. Arriva la trippona varicosa in studio e dopo un po' esce una sorta di Venere impensabile, perché su lei hanno lavorato parrucchieri, massaggiatori, stilisti, insomma l'hanno rimessa accettabile. O il regalo che fa il marito alla moglie sfatta, o il regalo che si fa alla bambina con l'orecchia a svento. La televisione, nella sua necessità di mostrare alcuni aspetti taumaturgici, quasi misteriosi e magici, chi passa in televisione naturalmente ha una vita diversa in ogni senso, in ogni caso, ha ripreso, non so se inconsapevolmente esiste una linea di trasmissione diretta, l'antico concorso degli anni 20 e promette bellezza, felicità e splendore a chi si adegua al suo modello estetico. Ricordo Rossella Ghigi, autrice di Per piacere, storia culturale e la chirurgia estetica. Ecco, Rossella, abbiamo ancora in linea il chirurgo estetico che poi parlerà. Te quando dati più o meno come periodo storico questa necessità sociale e culturale di rimettere mano al corpo femminile, parliamo di corpo femminile, perché sì, è vero che gli uomini si mettono cremine, che si rifanno anche loro le rughette, ma oggi il grosso sono le donne, sono queste signore che vanno in giro con una totale inconsapevolezza dell'orrore molte volte a cui sono costrette, e mi viene quasi il sospetto che, come le anoressiche si vedano grassissime, loro si vedano belle, quando in realtà oggettivamente molte volte sono terrificanti. Beh, io ho citato proprio l'annuncio del Daily Mirror che avete letto prima, proprio in un capitolo del libro in cui racconto che il passaggio fondamentale è stato proprio gli anni 20 e 30, in cui effettivamente si moltiplicano le offerte di gabinetti estetici e di chirurghi che vogliono appunto, si propongono come i primi cosmetic surgeon proprio in America, perché si parla soprattutto degli Stati Uniti, ed è proprio il periodo fondamentale in cui le donne iniziano a essere il nuovo target di questa chirurgia. Mentre fino a fine 800, questo va detto, il confine tra chirurgia plastica ricostruttiva e chirurgia plastica estetica è ancora molto labile, e avevamo per esempio in Europa sia uomini sia donne che chiedevano di fare degli interventi, per esempio per modificare alcune tratti caratteristici, ad esempio uomini ebrei e donne ebree, ma soprattutto uomini che volevano rifare il naso per non essere identificati come tali, oppure immigrati irlandesi negli Stati Uniti che cercavano di cambiare alcuni connotati alle orecchie, per esempio al naso, che venivano identificati come i marcatori della razza celtica. È un po' degli antesignani di Michael Jackson, che ha cambiato completamente la sua origine, la sua etnia. In qualche modo sì, ma d'altra parte Michael Jackson, anche lui, diciamo, lo sbiancamento della pelle ha una storia molto molto molto lunga, che va e continua anche dopo Michael Jackson, perché le creme sbiancanti sono diffusissime in moltissimi paesi. Sì, diciamo che oggi le donne occidentali le usano per sbiancarsi una zona molto poco nominabile che si trova collocata alla base della spina dorsale, non si capisce perché, ma pare sono degli interventi estetici più frequenti delle signore contemporanee. Sì, prego. Il problema di queste creme, se vogliamo aprire una parentesi, è che sono ancora molto rischiose, soprattutto quelle a base di mercurio, e quindi creano dei problemi soprattutto in paesi in cui questo commercio è meno controllato. Però volevo, se mi permetti, inserirmi in un discorso che è stato fatto poco fa sulla base dei due interventi che abbiamo ascoltato delle persone che hanno chiamato, e poi sono curiosa di sentire cosa le dice Amedeo, anche certo, dal professore del chirurgo. Io mi sono segnata due cose mentre sentivo gli ascoltatori parlare. Il primo ha parlato, il ragazzo ha parlato della questione dell'autenticità. Anche qui, come dici tu, è una questione più delicata di quanto non possa sembrare, perché il corpo naturale, il corpo autentico, è naturalmente, non esiste, diciamo, sotto in alcuna società. Tutte le società hanno previsto una qualche modifica del corpo per rendere i sì, propri membri. Dobbiamo stringere perché devo far parlare ancora tre persone. Rossella, il secondo che punto. Ho capito rapidissimamente è che molte pazienti che io ho intervistato parlano di un corpo autentico, cercano un corpo autentico che le rappresenti meglio di quello che loro hanno, e non fanno un elogio dell'artificio. L'altra cosa che mi ero segnata, la differenza tra uomini e donne. Sì, è vero che gli uomini assolutamente ricorrono di più a cure, trattamenti per il corpo, cure di bellezza. Il punto è il discorso che sta alla base. Non sono meno uomini se non lo fanno, mentre questo non vale per le donne. Amedeo, è d'accordo con quest'ultima battuta? Amedeo, il chirurgo plastico, ci ha chiamato prima. Allora, no, sì, infatti sono d'accordissimo. Ormai la percentuale è assolutamente 50% uomini e donne, non c'è più questa prevalenza femminile. E io volevo dire un paio di cose. Allora, mi sono venute in mente, ascoltando la dottoressa, premetto che appena esco da qui vado a comprare il suo libro immediatamente. Sì, si vada le cose, perché sennò non faccio in tempo a farla parlare. Allora, riguardo i tatuaggi, le scarificazioni del corpo, sono antichissime, sono probabilmente risalgono all'età della pietra. Okay, ma abbiamo già detto questo, poco a che fare con l'estetica, è un fenomeno rituale di armonia con un disegno del creato che si ricomponeva nei passaggi appunto vitali di un essere umano, segnando il proprio corpo. Ma sull'aspetto estetico? Sull'aspetto estetico, la foratura dei lobi delle orecchie, l'allungamento del collo, sono da tutti gli effetti interventi di chirurgia estetica. Sì, però oggi diciamo che non abbiamo nessun tipo di motivazione metafisica, religiosa o sociale per cui dobbiamo fare queste cose, facciamo semplicemente perché c'è un modello che ci piace. Roberto, finiamo con Roberto. Buongiorno, no, io volevo solo osservare per quanto riguarda il velo islamico, no? Con quello che si vede per strada, camminando sui mezzi pubblici, eccetera, di donne che alle spalline delle gistene, no, che si vedono, le carne che deborda dai jeans o dalle camicette, io devo dire che preferisco molto di più un velo islamico che da punto. Cioè, dice certe cose meglio coprirle che farle vedere, però le posso dire una cosa. È una questione estetica. Sì, estetica, però bisogna anche avere tenerezza, comprensione. E essere in questo liberali di testa. Se una persona ha la pancia abbondante, perché non deve rinunciare a sentirsi bella e desiderata facendola vedere? Certo, è chiaro, c'è chi piace, chi non piace, ma diciamo che la varietà dei gusti maschili è talmente ampia che a qualcuno piace anche la panzona, piace la tettona, piace il culone. Ringrazio Fabrizio Intonti e Paolo Corleone, ci sentiamo domani. Lasciate un messaggio alla segreteria telefonica di Melog 828 1111. Melog va in replica questa sera alle 22. Melog 2.0.